cosa che non ricevito. Cava. Ma lo stai usando? Ce l'ho qui a fianco. Bene. Come? Funziona bene. Cosa, Giuseppe? L'apparecchio che ho qui a fianco, l'ho messo a scaldare perché ero già una ventina di giorni che non lo usavo. E sto guardando qui lo smitter che mi sta andando a fondo scala qui a fianco a me, e sono soddisfazione vedere gli smitter tutti giù. Io te lo faccio girare con lo smitter. 9,40. Ehi, la grande. Vabbè, ehi. Oh, Giuseppe, tu ne sei sempre in giro e molte volte ti capitano, non so se ce li hai presenti, quei tacchetti quadrati in gomma, che voglio provarlo a metterlo nel dilli, perché quando è troppo carico, che le palestre si abbassano troppo, e la pugliasse sopra il tacco in gomma. Ma con gomma che cosa intendi tu, Mario? Hai visto quegli affari che mettono anche nelle mare, tipo il mio? Però il tacco in gomma è troppo piccolo. Quando tu carichi che si abbassano perché le palestre si tirano, no? A un certo punto, come fine corsa, c'è un tampone in gomma. Cioè, è stato rotondo, però c'è un tappone in gomma. E io ho visto molti posti che mi capitano, che li usano come tacchi per appoggiare la roba. Se te ne è capitato qualche numero di quelli lì per fare dei tacchi da mettere tra la palestra e, diciamo così, e il telaio del cassone. In modo che se dovessi caricare troppo le gomme non vanno a toccare o a strusciare sopra i palafanghi. Senta, posso provare a dare uno sguardo in giro se vedo qualcosa, Mario? No, perché l'altro giorno sono andato a chiedere cosa costavano i palestrini, che i palestrini sono sotto quei lilli, che però ci vuole la patente C per guidarli. E però quei palestrini costano quasi 800 euro. Ma sono quelli rinforzati. Pappa. Mi prendete un secondo, arrivo meno di subito. E noi siamo qua. Si trovano, Mario? No, è difficile trovare quelli che sto dicendo io. Li puoi trovare da un'altra barra vecchia, però sono piccolini come quelli che ho io. A meno che non sia un degli di quelli che si porta con la patente C. Allora quei palestrini ce li hanno già loro, capito? Perché è fatta apposta in modo, siccome il gelli che guido io può caricare sino a 12 quintali, mentre che quello che si guida con la C può caricare, mi sembra, sino a 50 quintali. Però c'ha i palestrini e più c'ha i tacchi in gomma, che quando arriva con quel peso si appoggia lì e non va più né avanti né indietro, rimane in linea e non sforza sulle ruote, diciamo così, dai. Cioè il telaio non va a fregare sopra le ruote. Si piano, non lo sai che è sicuro che quando carichi. Non è per fattore di sicurezza, è per fattore che se dovessero sbagliare caricando, non mi succede come l'altra volta di fare un solco di, non voglio esagerare, ma almeno 5-6 mm senti molto, lui si abbassa e poi quello che lì alla fine vanno a lasciare sotto i copertoni e gli fa i surchi. Cosa tutto non c'è? guarda, quando ti si quello lì qui ci spunta sempre e cammina da solo, c'è anche il cambio automatico. Oramai mi stanno facendo più comode delle vetture, quei mobili. E ti dico che sono veramente belli, comodi e niente. Tu basta che schiacci un bottone e fanno da accelerano, frenano, fanno. Tu devi tenere solo il volante. No, ma con quello, perché io ho visto che ce n'è da uno che c'aveva le telecamerine sempre collegate col navigatore e che ti inquadra. Vabbè, adesso qui in Sardegna non è dappertutto che c'è, però hai visto la linea continua che c'è vicino al guardarai. Quando tu stai camminando a velocità di crociera con quel camion, come per dire, stai andando a Cagliari, che gli metti praticamente come io c'è da, il pilota automatico, perché c'è quella telecamera che ti inquadra il bordo della strada. Se il camion poco a poco si sposta, da quella traiettoria ti si ferma. Sono comodi quei sensori. Sono comodi, sì, anche quando stai manovrando, se c'hai poca visuale. Con quella telecamera vedi anche se c'è un ostacolo dietro. È positivo, quella è comodissima per la retromarcia, la telecamera posteriore. Gianni Doppio Room, cosa mi stai combinando? No, Gianni non c'è, altro fatto. Allora, ma io sono tutti dormiti. E mi sa che è arrivato l'ora di sdraiarci anche noi un pochino. Io sono andato a prendere una bottiglia d'acqua. Gianni mi sa che è beato tra le braccia di Morfeo. Gianni, sei dormito, Gianni. E io sono dalle 5 e un quarto in stabilimento stamattina e sono sceso anche a piedi. Come mai? Come sei a piedi? E tutta la settimana ero fuori, mio Mario. E lunedì lo stesso. Lunedì sono a Nuoro. Ma è cappagato, no, io prima mi stavo alzando, però quei giorni mi ha fatto freddo. E chi se ne alza dal letto? Pensare al malacchino, ma manco per sogno. Fai bene Mario, fate arrivare in chi vi ha più freddo fa nulla. Tu figurati che talmente erano brutte le giornate che non ne ho attaccato manco io in barra, voi. Ah, io già quando si sta bene, diciamo così, già mi alzo, accompagno al corso, al gettone, si va a Macomello, accompagniamo a Vulcano e tanti altri. Però grande per freddo, se fa si mette anche la culla. È positivo, un bel paio di babbucce, vero Antonio? Un bel pigiamotto e via. Eppure quello ci vuole. Ah no, io non ne uso, io quando vado a letto, come mamma mi ha fatto, davvero, il lenzuolo e il piumone sopra, sai come ti tiene bello tutto caldo, dormi come un porcellino. Perché vedi, da Luca va bene, lo so, anche da coso va bene, da Marchetto. I misteri della radio. Magari voi intanto mi ha fatto rimontare tutti che calcolano la una volta non ti cavata del tutto e poi era sempre un attesa. C'è più voi adesso fino a stasera, 7:30, 8, non scompare. Però non fa, ok, prima ha buttato 5 punti a Roberto, almeno 9.30, adesso c'è 9.25 al giorno. Vuol dire che anche tra canali c'è differenza. Fica.